si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, eccoci qua con Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24, stiamo insieme fino alle 10, cominciamo tra pochissimo con un'occhiata ai giornali di oggi, una veloce rassegna stampa che ci accompagnerà fino al giornale radio delle 8. I nostri contatti, se volete cominciare da subito a interagire con noi in tempo reale, 349-238-6666 anche su WhatsApp e poi la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account di Twitter è @ Si può fare 24, il mio account personale @ Ale Maurizi. Vai, andiamo a iniziare. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, giornali di oggi che si occupano naturalmente delle indagini sulla caduta dell'aereo nel Mediterraneo, l'aereo Egyptair decollato da Parigi, diretto al Cairo, fumo in cabina, poi la caduta, questo è il titolo in prima pagina del Corriere della Sera, per esempio. Airbus trovati i rottami, caccia ai basisti a Parigi, scrive la stampa. Aereo Egyptair, rinvenuti i corpi e rottami a largo di Alessandria, allarme per il fumo prima del disastro, scrive in prima pagina anche il Sole 24 Ore. Andiamo subito a vedere quali sono le notizie, perché secondo Guido Olimpio, per esempio sul Corriere, ci sono due versioni ufficiali che si rincorrono un po' dall'inizio, di quando è stata diffusa la notizia di questo disastro giovedì scorso e poi quello che è accaduto anche in passato, ahimè, per altri aerei precipitati di cui si sono perse le tracce, di cui non è stato facile è possibile capire fin da subito la dinamica dell'incidente, ma secondo Guido Olimpio il motivo potrebbe anche essere per non gettare, prima di avere delle certezze, l'opinione pubblica nell'angoscia per questo attentato che svelerebbe come sia possibile mettere a rischio un aereo decollato da un aeroporto ormai che è un fortino come quello di Charles de Gaulle a Parigi. Due narrazioni, scrive Olimpio sul Corriere. La prima si affida alle indiscrezioni, compresa una importante. Il sito Auerald è un esperto che hanno sostenuto che il computer di bordo ha segnalato fuoco in cabina e due minuti dopo i sistemi del jet hanno smesso di funzionare. Situazione d'emergenza prodotta, si sembra, nella toilette anteriore sul lato destro dell'aereo. Un aspetto che da solo non basta a far prevalere l'ipotesi attentato su quella del guasto, però insomma sembrerebbe andare in quella direzione. La seconda versione invece è quella ufficiale, con le dichiarazioni dei portavoce, quasi tutti frenate dalla cautela. Giovedì la Casa Bianca stessa ha assunto questa linea, stessa cosa per le autorità francesi che dicono di essere aperte a ogni ipotesi, ossia anche l'ipotesi dell'avaria. Del guasto, quindi, possibilità forse accantonata inizialmente con troppa velocità, ma che alcuni analisti continuano a tenere in considerazione. Gli 007, prosegue Olimpio, presentano il loro report, poi è il governo che deve prendere le decisioni, bisogna decidere cosa dire all'opinione pubblica, con appunto evidenti conseguenze sulla opinione pubblica già angosciata dalle minacce dei tagliagole. Se poi ora sono riusciti ad inventare un cavallo di Troia in grado di beffare l'aeroporto Fortino, la preoccupazione aumenta. Il nemico non è davanti alle mura, ma è già dentro, oppure sa come far per piazzare un ordigno a bordo senza che nessuno se ne accorga. E questo è l'aspetto di questa doppia ipotesi su cui insomma ancora le indagini stanno lavorando. Gentiloni parla di pista sul terrorismo, così fatto anche la Russia, e invece appunto gli Stati Uniti e la Francia, così come l'Egitto, sono più aperti anche all'ipotesi del guasto. Restiamo all'estero per un'altra notizia. Per un'altra notizia che non è una bella notizia, viene dalla Turchia, che ultimamente appunto non fornisce, oddio, per qualcuno potrebbe essere un sogno, perché avere tolto l'immunità parlamentare appunto a tutti i parlamentari per molti in Italia potrebbe essere appunto un sogno, ma questo sogno in un paese come la Turchia, che sempre di più sembra avviarsi o assestarsi su una sorta di dittatura strisciante di Erdogan, potrebbe un po' impensierire questa decisione. Da ieri l'immunità parlamentare in Turchia non esiste più, l'ha cancellata con un colpo di spugna la Camera dei rappresentanti, approvando con la maggioranza dei due terzi una legge che non dovrà neanche essere sottoposta a referendum. A favore della revoca dell'immunità hanno votato, manco a dirlo, i 316 parlamentari dell'HPP, il partito di Erdogan, e anche i nazionalisti dell'MHP. Ora almeno 100 deputati saranno inquisiti e molti rischieranno di finire in prigione. Uno dice che c'è di male se deputati coinvolti in reati adesso verranno giudicati senza l'immunità. Ripeto, per alcuni è un sogno. Il problema è che qua parliamo per esempio dei quasi tutti i rappresentanti dell'HDP, il partito filo-curdo, la minoranza curda che da anni è una spina nel fianco dei governi e delle autorità turche, perché richiede un'autonomia maggiore di quella che ha, e spesso questo conflitto politico diventa un conflitto di politici, giornalisti e attivisti che finiscono in carcere. Quindi 50 dei 59 parlamentari del movimento filo-curdo appena entrato in Parlamento all'ultima tornata elettorale, ha superato la soglia del 10%, rischiano di finire in galera. E poi ci sono anche i due leader dei principali partiti di opposizione, i kemalisti e di nuovo il partito dei curdi. Anche il portavoce della cancelliera tedesca Merkel ha detto che il governo tedesco segue con preoccupazione la crescente polarizzazione della politica interna turca. Chi gioisce è Erdogan, che ha detto: è un voto storico, il mio popolo non vuol vedere in questo Parlamento colpevoli di reati, in particolare i sostenitori delle organizzazioni terroriste del separatismo. E di certo, scrive il Corriere, la decisione del Parlamento è la pietra tombale sulla speranza di riavviare il processo di pace con la minoranza curda. E questo è quello che appunto succede in Turchia. Veniamo invece in Italia con... Sulle pagine di tutti i giornali ci sono le foto delle lunghe code per l'addio a Marco Pannella. Oggi il funerale laico in Piazza Navona. Pannella sarà sepolto poi a Teramo. Intanto ieri a Montecitorio, appunto, l'addio, l'ultimo addio. E Pannella riesce a fare notizia anche da morto, perché a far notizia è Famiglia Cristiana, che svela la lettera inviata da Pannella al Papa. E insomma, c'è di che parlare. Le ultime righe, scrive Repubblica, per esempio, sono in stampatello: una mano che trema e fa fatica. Ti voglio bene davvero, tuo Marco. Marco Pannella, già prossimo alla morte, aveva scritto al Papa il 22 aprile scorso. E ieri, nelle stesse ore in cui si apre la Camera Ardente a Montecitorio, Famiglia Cristiana rende pubblica questa missiva intensa, per nulla formale, vergata con l'aiuto di altri che naturalmente hanno scritto per lui, eccezion fatta per quello stampatello finale così incerto. Caro Papa Francesco, scriveva Pannella, ti scrivo dalla mia stanza dell'ultimo piano vicino al cielo per dirti che in realtà ti stavo vicino a Lesbo quando abbracciavi la carne martoriata di quelle donne, di quei bambini, di quegli uomini che nessuno vuole accogliere in Europa. Questo è il Vangelo che io amo. E queste sono le parole che fanno discutere, parole scritte appunto da Pannella al Papa, parole sentite ovviamente, parole che forse lo stesso Pannella sapeva che sarebbero poi rimbalzate, risuonate al momento della sua scomparsa. E parole che non so, potranno magari mettere d'accordo molti, forse tutti, quello che è riuscito a fare Pannella in queste ore, quello che non aveva fatto in passato, dividendo molto con le sue battaglie sui diritti civili, che ricordiamolo adesso sono elementi acquisiti della nostra vita della nostra società, ma quando queste battaglie furono portate avanti da Pannella e dagli altri con lui, furono battaglie anche fortemente divisive. E quindi, così, insomma, ecco il viso immobile di Marco Pannella nella bara aperta sotto il sudario, l'abito nero, la cravatta rossa, una sciarpa bianca che avvolge il collo, la kata, il simbolo buddista di purezza, poi rose bianche, garofani rossi, le corone delle istituzioni e la solenne scenografia del congedo a Montecitorio, scrive Alessandra Longo su Repubblica, quasi a voler compensare ciò che non è stato riconosciuto in vita ad un grande protagonista assoluto della scena politica. Ci sentiamo più soli senza di te, scrivono tanti italiani, senza blasone nel libro delle condoglianze. E restando su sulla Repubblica, prima di andare sui sondaggi, in vista delle prossime elezioni, mancano 2 settimane, il titolo principale della Stampa è dedicato al rapporto dell'Istat. Italia, un paese alla rovescia, anziani al lavoro, giovani a casa. Impietosa la fotografia Istat dell'Italia, un paese alla rovescia che cresce ma invecchia con gli anziani al lavoro e i giovani a casa. Un altro dato allarmante sono gli oltre 2 milioni di famiglie senza reddito. Leggiamo il contenuto di questo rapporto tra un attimo, dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, eccoci qua di nuovo insieme, cari ascoltatori, nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e insieme ai giornali di oggi con una veloce rassegna stampa. Dicevamo del rapporto dell'Istat, se ne occupa la Stampa, se ne occupano quasi tutti i giornali di oggi, ma insomma, tra il 2004 e il 2015, scrive la Stampa, rileva il rapporto Istat, giovani e adulti presentano dinamiche opposte. Innanzitutto il peso decrescente dei 15-34 anni, cioè dei giovani, sul totale degli occupati testimonia il progressivo invecchiamento della forza lavoro, ahimè. A questo si aggiunge la diversa struttura dell'occupazione. I più grandi, quelli tra i 55 e i 64 anni, sono più presenti nei settori tradizionali, quali l'agricoltura, la pubblica amministrazione, l'istruzione e la sanità. I giovani, invece, sono presenti nei servizi privati. Inoltre, il maggiore investimento in istruzione dei più giovani non trova riscontro nelle qualifiche che poi si ottengono nei posti di lavoro, perché il numero dei sovraistruiti, cioè di quelli che hanno un titolo di studio che non rispecchia in qualche modo il loro livello occupazionale, tra i giovani è il triplo di quello degli adulti, che quindi sono collocati a un livello più adeguato alla loro formazione. E poi aggiunge l'Istat, anche la staffetta generazionale sembra essersi in qualche modo interrotta, perché le uscite dal mondo del lavoro degli anziani non sono rimpiazzate dalle entrate, spesso e volentieri in molti settori. Uno su tutto, la pubblica amministrazione e la scuola, dove ci sono 125.000 uscite e solo 37.000 ingressi. E questo è il quadro. Naturalmente poi ci sono altri aspetti che riguardano la vita degli italiani, come per esempio gli adulti in sovrappeso, che sono aumentati dal 51% al 54%, erano appunto un po' meno nel 2004, sono aumentati un pochino nel 2015. Tanti spunti li trovate su tutti i giornali di oggi. Adesso però, per tirarci un pochino su il morale, ce l'abbiamo una bella storia da raccontarvi, una buona notizia, vai! The good news. Allora, è più che altro una storia e ce la si incarica di raccontarcela Gian Antonio Stella sulla prima pagina del Corriere di oggi, ed è la storia di Praiano in Costiera Amalfitana, il museo all'aperto pagato dai cittadini. Avete capito bene, perché a Praiano, un gruppo di abitanti che lì sono nati o hanno scelto di eleggere la loro residenza si sono messi in testa di fare qualcosa insieme per il loro paese. Hanno aggregato via via locandieri, vignaioli, falegnami, bottegai intorno all'idea che prima dello Stato i primi a dover credere, investire soldi e lavoro e fatica su Praiano dovevano essere proprio chi? I praianesi. Fondata così una onlus per realizzare una strategia di sviluppo ecosostenibile e intelligente per il paese, creata una cassa dei contributi locali allo scopo di avere una quota di cofinanziamento locale, messo online ogni spesa, le donazioni tutte trasparenti, spiegato che chi non aveva soldi poteva dare anche una mano scopando le stradine, curando le pubbliche aiuole, intonacando i brutti parapetti dei mattoni o tappando i buchi dei muri a secco. Vedere per credere, la piccola la cura quotidiana ha fatto miracoli. Il turismo è in crescita, sono stati vinti bandi europei per 250.000 euro di fondi, sono stati contattati i migliori artisti della ceramica della zona che hanno ridato attualità e alle caratteristiche edicole votive, facendo di Praiano un museo a cielo aperto della ceramica. Ah, è una bella storia, ogni tanto è bello anche leggerle, raccontarle. Tra l'altro basta vedere le foto per innamorarsi di questo borgo nel quale sono passati tutti, da Steinbeck a Lucio Dalla, innamorandosi di questo pezzettino di costiera amalfitana. Vabbè, poi un'altra piccola notizia ve la voglio dare, viene, questa riguarda il futuro, viene dalla Florida, dove si sta progettando la prima città alimentata solo con energia solare. Qua guardiamo proprio al futuro, un'oasi green, 50.000 abitanti. A idearla è Sid Kitson, che 10 anni fa ha acquistato i terreni sui quali oggi si progetta questa smart city totalmente innovativa. Torniamo coi piedi per terra e torniamo sui giornali di oggi e vi avevo detto dei sondaggi, può essere interessante, si vota in alcune grandi città, Roma, Milano, ma anche Napoli, Torino e Bologna. Per esempio a Torino in vantaggio sui sondaggi è, nei sondaggi almeno, Piero Fassino, 42%, sembra non esserci storia con il secondo candidato che si piazzerebbe dietro Fassino, che è Chiara Appendino nel Movimento 5 Stelle, 23%. A Roma si mantiene in vantaggio Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle. A contendersi la seconda piazza e quindi il ballottaggio sono Roberto Giachetti e Giorgia Meloni, un testa a testa attorno al 24%. A Napoli può strasorprendere alcuni il fatto che i sondaggi, per ora, che poi vanno sempre presi con le ultramolle, danno in vantaggio De Magistris con la percentuale lunare quasi doppia rispetto agli altri candidati, 42%. Contro Lettieri, Forza Italia 19%, e Matteo Brambilla del Movimento 5 Stelle 17%. A Milano leggero vantaggio di Sala su Parisi 39-35%, a Bologna Merola sfiora quasi il 50%, il sindaco uscente che va verso una riconferma. Che dirvi di altro? Beh, l'intervista di Pisapia su Repubblica, se volete, il sindaco di Milano, che dice: Sala e Parisi non sono affatto uguali, uno è stato scelto da 60.000 votanti alle primarie, l'altro ad Arcore, Sala si è impegnato per la città, Parisi non mi risulta, uno guida una squadra che si dedicherà solo a Milano, l'altro a tutti i capilista che sono specchietti per le allodole con doppi mandati che andranno via il giorno dopo le elezioni, nessuno tra i nostri candidati ha problemi giudiziari, loro non possono dire lo stesso. La differenza tra le coalizioni non mi è mai sembrata così chiara, dice Pisapia. Qualche altro titolo per chiudere, andiamo sul Sole 24 Ore, per esempio, dove si parla del cuneo fiscale, ipotesi taglio sui nuovi assunti. I tecnici di Palazzo Chigi lavorano a una riduzione fiscale strutturale di 4-6 punti, prosegue il lavoro l'istruttoria tecnica per appunto valutare un taglio di anticipare al 2017 un taglio strutturale del costo del lavoro di 4 o 6 punti. Poi ancora sul giornale Pensioni, le nuove regole, si potrà uscire dal lavoro anche 3 anni prima del previsto con un taglio fino al 4%, cambia tutto, scrive il giornale. Ecco la base che si rialza. Filippo Reggi mi ricorda che siamo in chiusura, quindi ci salutiamo, adesso c'è il giornale radio con Si può fare, ci ritroviamo subito dopo, parleremo del 5 per 1000, come destinarlo, che ci sono delle sorprese, delle amare sorprese, lo scopriremo tra poco dopo il GR. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Cause Uptown funk don't give it to you. Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. E buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Quando sono le 8 e 19 minuti di sabato mattina, una nuova puntata di Si può fare. Stiamo insieme fino alle 10, cari ascoltatori. Milano Monterosa, Carlo. Molto bello, c'è il sole, sì. Finalmente, insomma. Si viaggia alla grande. Sì, perché è stato un momento in cui sembrava che l'estate fosse già arrivata, credo, intorno ad aprile. A marzo. Esatto, aprile. Poi io invece fino all'altro ieri avevo molto freddo, adesso è tornato il caldo, siamo felicissimi, forse finalmente è iniziata l'estate. Sì. Esageriamo, proprio addirittura l'estate. Ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo come sempre per sentire i vostri racconti, le vostre buone notizie del fine settimana e anche per giocare con noi, per stare insieme a noi. Oggi in palio i biglietti e il catalogo della mostra di Miro allo splendido Mudec di Milano. Oggi però è più aperto del solito il nostro microfono aperto del sabato, perché è giusto, vogliamo ricordare Marco Pannella. E quindi vi chiediamo un vostro ricordo oppure una battaglia di Pannella che in qualche modo vi ha cambiato la vita, in meglio, in peggio, chi lo sa. E se volete dire grazie a Marco Pannella, esatto, in qualche bravo, modo per una delle conquiste che ci ha aiutato a ottenere, dal divorzio all'obiezione di coscienza, ricordiamoci anche le lotte per la legalizzazione della cannabis, che ancora in siamo atto. Lì oppure ci ha passato un po' il testimone, perché noi ce ne occupiamo comunque, sì. Della canapa noi solo. Oppure se volete dire grazie a Marco Pannella, che so, per uno dei suoi imperdibili discorsi radiofonici di 8 ore che faceva Radio Radicale. Molto giusto, ricordiamo anche quelli, anche quelli. Quello che mi sembra giusto è riconoscere a Marco Pannella, penso che sia una figura fondamentale per l'educazione di qualunque italiano, perché è veramente l'emblema di colui che, credendo fermamente in qualcosa, in una miglioria possibile, che a tutti noi sembrava impossibile, irraggiungibile, lui invece insisteva, si metteva e nonostante sembrasse impensabile, lui non si faceva mai abbattere da nessuna sconfitta, ma anzi ogni volta alzava il livello dello scontro ed era pronto a morire per le sue idee. Abbiamo visto il suo corpo fiaccato un sacco di volte. Una storia incredibile quella di Pannella, quasi come la notizia che in questi giorni rimbalza sui siti, che non ha nulla a che vedere con le battaglie radicali sui diritti civili, che viene dalla Cina invece, perché c'è un'azienda che in realtà è un'azienda canadese che sta facendo affari d'oro vendendo, che cosa Carlo, l'avrei visto forse anche tu spulciando sui siti, vendono bottigliette con aria pulita in Cina, ti giuro, $28 l'uno. Bisogna approfondire questa notizia. Pensavo bisogna comprarne subito, compriamone un po'. Non so se a Milano siamo messi così male come a Pechino. Ogni bottiglia contiene circa 7,5 litri di aria. E penso che sia una notizia attendibile. Ci sono anche le foto, l'hanno riportata a varie siti. È un Si può fare pazzesco, non lo so. Foto d'aria, ci sono delle foto di bottiglie ripiene d'aria. È il futuro che ci aspetta. E dove le vanno a prendere, quello, soprattutto, mi chiedo? Qual è l'aria buona? Forse in Canada, perché l'azienda produttrice è un'azienda per l'appunto canadese. 800 24 00 24, cari ascoltatori, tra poco iniziamo parlando di 5 per 1000, le scelte su come destinare questa quota di dichiarazione dei redditi per finalità sociali, perché ci sono, c'è un però un po' ingombrante. E soprattutto perché abbiamo appena, siamo lì lì per firmare le dichiarazioni, esatto, dei redditi, il periodo è questo. Quindi restate con noi. Il problema sul 5 per 1000 ce lo racconta Massimo Coencagli, direttore scientifico della Scuola di Roma Fundraising.it, autore di una petizione. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Di una petizione che trovate su change.org, nella quale qual è il problema che sollevate? Il problema è molto semplice: i contribuenti italiani ogni anno, in occasione della denuncia dei redditi, sono chiamati a sottoscrivere, hanno la possibilità di sottoscrivere il 5 per 1000 dei loro redditi, delle loro tasse, a favore di organizzazioni, onlus, ricerca, università e quant'altro. Una buona cosa, e, questo, noi sì, siamo assolutamente felici. Una buona cosa, assolutamente però... una buona cosa, uno strumento avanzato, si usa dire, della sussidiarietà, che è uno dei principi che è nella nostra Costituzione, articolo 118. Il problema è la gestione di questo 5 per 1000, perché spesso i contribuenti non sanno che dal momento in cui decidono e quindi dicono allo Stato di versare questo 5 per 1000 a un'organizzazione, passano ben due anni e mezzo circa, che l'Agenzia delle Entrate comunica i risultati, quindi quante sottoscrizioni un'organizzazione ha ricevuto e soprattutto il versamento dei soldi. Ora, voi capite, contribuenti, che magari avete dato i soldi del 5 per 1000 a un'organizzazione perché vuole garantire assistenza delle persone indigenti, il bisogno è subito, i soldi arrivano due anni e mezzo dopo, è molto difficile per le organizzazioni garantire poi gli obiettivi per i quali hanno chiesto di essere sostenuti. Certo. E soprattutto farne affidamento, direi, perché per molte associazioni magari sanno che i soldi arriveranno, certo, ma finché non arrivano devono cavarsi in un altro modo e il rischio è che falliscano prima, quindi mi sembra molto importante questo punto. Il famoso pagamento a 48 mesi. Eh sì, è 48 mesi e anche qualche cosa in più. Ma guardi, è importante che capiscano i contribuenti che anche sapere i risultati è fondamentale, perché se io so che mi hanno sottoscritto 1000 persone, io so che comunque ho a disposizione una determinata cifra, quindi certo, potrei anche andare alle banche a farmelo anticipare, ci sono alcune banche che lo fanno con degli interessi bassissimi, quindi già anche solo sapere i risultati. Noi negli ultimi due anni, come fundraiser, come raccoglitore di fondi, abbiamo dovuto fare delle campagne, le cosiddette fuori le liste, tweet bombing nei confronti delle agenzie delle entrate per ottenere i dati, ma attenzione, due anni dopo. Ma la cosa che forse è un pochino più, oserei dire, scandalosa è che esiste un analogo strumento, gli italiani lo sanno, il 2 per 1000 a favore dei partiti. Certo. E quindi ha gli stessi meccanismi. Scommetto però, che questo funziona, arriva molto prima, scommetto che funziona molto meglio? Guardi, noi abbiamo la certezza di questo perché lo scorso 2 settembre Renzi pubblicamente, il Presidente del Consiglio pubblicamente disse che era molto soddisfatto delle, ricordo se 55 milioni ricevuti, ok? Quindi lui già sapeva. Per lui. Il 2 settembre ancora dovevano essere chiuse le denunce dei redditi e poco dopo hanno ricevuto i soldi. Teniamo conto che anche l'8 per 1000 alla Chiesa, che io non toglierei per nulla al mondo, intendiamoci, non vorrei essere equivocato, sì, addirittura viene anticipato dallo Stato. Quindi neanche, voglio dire, si aspetta, poi dopo si conguaglia. Ora, quindi noi chiediamo che di avere semplicemente lo stesso trattamento. Non è un problema tecnico, sicuramente ci sarà da registrare qualche cosa nella protesta, ma non richiede neanche di fare una legge sostanzialmente. Sì. E aggiungiamo anche un'ultima cosa, se mi è permesso. Certo. Perché togliere ai cittadini il diritto di far sapere alle organizzazioni non profit alle quali loro hanno destinato il 5 per 1000 chi sono loro? Cioè noi non riceviamo i nomi e i cognomi e l'indirizzo di chi ha sottoscritto il 5 per 1000. Per una questione di privacy, immagino, però voi nella vostra petizione giustamente dite: noi chiediamo che il cittadino, se vuole, scrive dicendo io voglio che il mio nominativo venga comunicato all'associazione non profit, giusto? Assolutamente, certo, con il rispetto della legge della privacy. Anche qui sì, qualcuno ha detto ma questo è impossibile, però sempre per quanto riguarda i partiti e non con il 2 per 1000, con un ulteriore, diciamo, un provvedimento che è stato fatto e sarebbe utilissimo per tutto il non profit, cioè un numero di SMS permanente che quindi il partito ha sempre e quindi può dire sempre si possono fare donazioni da 2, 5, 10 euro, riceve insieme a queste donazioni il nome e il cognome di chi gli ha dato i soldi. Naturalmente sempre su base volontaria e quindi No, in questo caso è obbligatoria per essere precisi, perché c'è una legge che dice che se una persona dona più di una certa cifra a un partito, questo nome deve essere pubblico. No, ai partiti quindi, certo, perché esattamente, sennò diventa un problema. No, ci basta che sia volontaria, certo. Anche perché non abbiamo nessun interesse a cercare una persona che non vuole parlare con noi. Benvengano i benefattori anonimi. Certo, e peraltro questo vuol dire che chi ha dato i soldi difficilmente sarà informato in maniera specifica di come le organizzazioni poi dopo hanno utilizzato questi soldi, quindi non aumenta la qualità della raccolta fondi, delle donazioni, anzi tende a diminuirla, un certo, come dire, obbligatorio disinteresse nei confronti di quello che succede a valle delle donazioni. Beh, insomma, intanto noi ricordiamo agli ascoltatori che è giusto fare questa scelta del 5 per 1000 perché non costa niente, ma è un modo per indirizzare una parte del proprio fiscalità, insomma delle tasse che si pagano per finalità sociali. Quindi bisogna fare questo piccolo sforzo, informarsi e decidere semplicemente a... Soprattutto si può decidere a chi destinarli. Nel è senso... un elemento di libertà importante, vale anche per i partiti, può valere anche per le chiese, però insomma ne vale la pena, perché tanti poi fanno la dichiarazione, non ci pensano e invece è un peccato, perché si... Assolutamente, è come privarsi di un diritto. Io infatti dico che questa petizione non è fatta, certo, è fatta a favore delle organizzazioni non profit e in parte anche del nostro lavoro che facciamo, ma questa è una petizione che riguarda soprattutto i diritti, abbiamo parlato prima dei diritti civili con il grande Pannella, riguarda un diritto costituzionale dei cittadini, quindi è una petizione che è fatta per tutelare concretamente un diritto dei cittadini contribuenti. Ad oggi peraltro sono circa 17 milioni, 18 milioni le persone che destinano il 5 per 1000, ma i contribuenti sono 38 milioni, vado a memoria, non mi sbaglio di grosso. Certo. Quindi c'è un margine sul quale noi potremmo lavorare attraverso sensibilizzazione, comunicazione e migliorando questo strumento, perché così indubbiamente è un po' inefficace, che potrebbe far allargare di molto la platea dei sostenitori del non profit, che vuol dire migliaia di progetti in più, migliaia di persone in più aiutate, l'ambiente aiutato, la cultura sostenuta. Ecco, se da una parte, termino, mi scusi, se da una parte il Presidente del Consiglio dei Ministri sono 2 anni che dice no, il terzo settore per noi è il primo, noi siamo contenti di questa affermazione ovviamente, ma vorremmo... Però è l'ultimo a essere pagato, sarà anche il primo. No, su provvedimenti semplici a costo zero per lo Stato si facciano concretamente delle cose, se no altrimenti rischia di diventare un pronunciamento meramente retorico e non credo che servano più pronunciamenti retorici nella nostra epoca. Giusto, e infatti lei giustamente anche questa petizione ricorda anche al governo che sarebbe bello che facessero degli spot per sensibilizzare, perché come giustamente stava ricordando lei, che è abbastanza assurdo che su 38 milioni di singoli che pagano le tasse solamente 17 milioni decidano a chi destinare il loro 5 per 1000, che comunque viene destinato a questioni di cultura. Però uno per esempio potrebbe decidere di destinarlo a un'associazione vicino a casa sua oppure che si occupa di problemi che hanno i loro figli, i loro nonni e così via. Quindi mi sembra giusto ricordarlo, che chiunque vada a controllare a chi decide di consegnare il proprio 5 per 1000. Certamente, questo sempre. Possiamo ricordare l'indirizzo preciso per chi volesse firmare la petizione? Certo, assolutamente. Allora, vada. Il sito è change.org. E bisogna digitare dopo l'indirizzo del sito liberiamo il 5 per 1000, dove 5 per 1000 è scritto 5 a numero, X 1000 a numero. Perfetto. Benissimo, grazie Massimo Coencagli, grazie per essere stato con noi. E... grazie a voi per l'ospitalità, davvero. E anche per questa petizione. Beh, è un po' come Carlo, se ti contattassero quelli di Mediaset e ti dicessero vogliamo fare il sequel di Camera Caffè, però ti pagheremo tra 2 anni e mezzo. Cosa gli diresti? Diresti sì, okay. Ci sentiamo fra 2 anni e mezzo. Ci sentiamo fra 2 anni e mezzo. 800 24 00 24, cari ascoltatori, voi come destinate, che scelte fate sul 5 per 1000 e poi soprattutto firmereste questa petizione perché i soldi del 5 per 1000 vengano destinate alle Onlus e al terzo settore subito, così come avviene per i partiti politici, per i quali invece i soldi addirittura, anzi per la Chiesa ha detto, per le chiese anticipati, perché, addirittura, perché in realtà non è solamente la Chiesa Cattolica, si può darlo anche ai valdesi, ai protestanti e così via, vengono addirittura anticipati. Vi aspettiamo all'800 24 00 24 anche con il vostro ricordo di Marco Pannella. un ringraziamento a Pannella Nazionale tra poco dopo la pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato a tutti. Ben ritrovati con Si può fare. Adesso andiamo fino al giornale radio delle 9. Tra poco vi diamo consigli su come vivere la notte europea dei musei. C'è un'ascoltatrice però che al 349-238-6666 ci parla di un interessante precedente, Carlo, per quanto riguarda le bottigliette d'aria pulita. Ah sì, io non vedo il WhatsApp, lo vedi tu il WhatsApp? No, questo è un SMS, dice: buongiorno, qualche anno fa, scrive Barbara, a Milano c'è stata una piccola mostra, performance, con palloncini rossi gonfiati con aria di Bordighera, in Liguria, da contrapporre a quella di Milano. Hai ragione, deve essere una storia ligure, perché qua vedo, non è una novità, 40 anni fa ad Alassio vendevano una lattina con scritto aria di Alassio. Vuoi vedere che la Vitality Air canadese, che vende bottigliette d'aria pulita in Cina, ha copiato da noi? Potrebbe essere. Sarebbe straordinario. Allora, ascoltatori all'800 24 0024, Sandra da Cagliari, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire, buongiorno, Sandra? Volevo intervenire sulla questione del 5 per 1000. Mm-hmm. Se davvero pochi contribuenti rispetto alla totale, sì, non erogano il loro 5 per 1000, quindi neanche lo segnano nell'atto della dichiarazione di redditi, forse questo è anche un po' colpa delle associazioni culturali o sportive, per esempio, che potrebbero essere beneficiarie di questo intervento. Io ho dei figli, ho una figlia, anzi, frequento un'associazione. Potrebbero magari promuovere una serie di sconti per chi all'atto della firma del 5 per 1000 indicasse quell'associazione stessa. Tutto qui. Guardi, okay. Io non lo so se ha ragione o meno, però questo è comunque già un problema, perché come ci spiegava prima Massimo Cohen Cagli, in realtà le associazioni non hanno i nominativi di coloro che sottoscrivono il 5 per 1000, quindi non potrebbero mai non solo farle uno sconto, ma nemmeno ringraziarla. È una delle questioni che è presente in questa petizione, ovvero nel caso che il contribuente sia d'accordo, che il suo nominativo venga consegnato alle associazioni, di modo che poi le associazioni possano ringraziare, fare gli sconti, fare la tessera o i punti. Vabbè, insomma, però Sandra sottolinea, bisogna dire anche, Sandra, che iniziative di marketing o anche di comunicazione per queste piccole associazioni a volte costano e non è e non sai, se no, e siccome non sai se ti tornano i soldi e se ti tornano, magari te ne tornano meno, e due anni dopo diventa difficile per un'associazione piccola programmare della comunicazione o una campagna stampa per avere il 5 per 1000. Voi, Sandra, lì siete riusciti a mettere in piedi qualche cosa in questo senso? No, io sono un umile cittadino, volevo soltanto fare questa cosa, anche perché secondo me l'attività di marketing di un'iniziativa di questo genere da parte di un'associazione culturale sarebbe abbastanza semplice, basta Facebook, bastano i social. È tutto gratis. Questo vero, verissimo, vero. Infatti tutti ci provano. Beh, non insomma, è che su... anche mettersi una pagina Facebook è un piccolo impegno. Comunque, grazie Sandra, ha gettato questo sasso nello stagno del 5 per 1000. Tiziano da Treviso, buongiorno, benvenuto. Pronto? Prego. Ecco, volevo fare una precisazione. Prego. Sul discorso dei due anni di ritardo che ci sono da parte dell'agenzia nel comunicare gli elenchi dei destinatari del 5 per 1000, no? Sì. Allora, l'ipotesi si può giustificare col fatto che la dichiarazione dei redditi che uno presenta può essere modificata entro l'anno successivo a quello in cui è stata presentata. Ecco perché maturerebbero due anni, l'anno di presentazione e l'anno successivo. Certo, perché chiunque può fare la dichiarazione integrativa o modificativa, cambiando i redditi, cambiando tutto quello che ha scritto, quindi potrebbe anche ripensare sulle destinazioni è verissimo, però come si spiega che invece i partiti hanno il 2 per 1000 quasi subito e le chiese, le religioni hanno l'8 per 1000 addirittura anticipato? Uno può anche cambiare fede religiosa, uno può sicuramente anche cambiare partito. È come... uno dei misteri italiani. Bravo, esatto, Tiziano. Perfetto. È questo, grazie, buona giornata. Ed è per questo che occorre sostenere la petizione promossa e di cui abbiamo parlato questa mattina da Massimo Coincagli, perché il 5 per 1000 subisca quantomeno lo stesso trattamento degli altri per 1000. Sì, c'è un giusto dubbio che invece ci viene dato da un SMS che dice giusto che i soldi arrivino 2 anni dopo. In questa maniera si evita che vengano aperte appositamente onlus per aggranellare soldi da parte di associazioni criminali. Solo le associazioni vere, quindi, che hanno un orizzonte superiore a 2 anni, devono ricevere questi soldi. Adesso, al di là di associazioni criminali, può essere che questo sia una delle motivazioni, ovvero di verificare. Però va anche detto che esistono associazioni storiche, non so, da Emergency ad altre, per cui sono 150 anni, sembrerebbe strano che non ci sia la certezza di quell'associazione, e credo che stia allo Stato verificare che quelle associazioni poi effettivamente adoperino i soldi per fare quello che promettono. Un conto è pagare a 2 anni, un conto sono le truffe. Gianfranco da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Chiamavo per parlare di Pannella, ma mi dia solo un secondo su 5 per 1000. Prego. Beh, anch'io intanto firmerò la petizione e penso che le associazioni criminali forse sono le uniche che avrebbero un vantaggio, perché hanno una potenza che insomma quelle normali non hanno. 2 anni è veramente scandaloso. Dice che quelle criminali riescono a farselo anticipare comunque. Ma sono già forti di suo, insomma, se capisco quello che sta capitando in questo paese. Insomma, certo. Ecco. Ma arriviamo a Pannella. Pannella, niente, io ho avuto un'esperienza da molto giovane, dall'età di 17 anni fino a 30 nel PSI, ed ero anche un dipendente di giovani in quel momento. Ho smesso ovviamente dopo Tangentopoli per quello che è successo, e mi ricordo quando facevamo delle assemblee con Pannella, in modo particolare sulla scuola, perché c'era una visione comune sulle scuole private. E a parte il fatto che Pannella ha avuto un ruolo importantissimo in questo paese per le battaglie sociali alle quali ha contribuito in modo determinante, siamo un paese un po' libero appena appena, forse anche merito suo, non di tutto, ma sicuramente in modo importante. E qual è Gianfranco il suo ringraziamento per Pannella? A Roma, all'Euro, facemmo un convegno, sì, e c'era anche Pannella invitato, a parte, sì, importantissimo quello che ha detto, ma rimasi affascinato, sì, da quest'uomo che avevo 20 anni, aveva un carisma straordinario, si vedeva solo di persona che aveva qualcosa da dire. E dopo l'ho anche seguito politicamente, ho fatto la doppia tessera quando il partito ce lo chiese. Comunque credo che abbia dato un grandissimo contributo all'Italia. Grazie, vero, Gianfranco. Grazie. Beh, insomma, mille. Quindi il suo ringraziamento a Marco Pannella per la passione politica che in qualche modo le ha trasmesso, e credo che abbia trasmesso a tanti cittadini, forse la particolarità è magari cittadini che non appartenevano a quelle due grandi chiese che erano il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana in quegli anni. Tutta quella terra di mezzo là è cresciuta molto avendo come riferimento, certo, il super Pannellone. Se possiamo dire, aveva un carisma, aveva un fisico, era imponente, era gigante. Il titolo si può fare, è molto pannelliano da un certo punto di vista, sì, perché lui era esattamente questo, cioè trovava una casa dove per tutti sembrava impossibile cercare in Italia di fare una battaglia, per esempio, per il divorzio. E lui era proprio l'esempio, la sua presenza significava si può fare. 800 24 00 24, ci risentiamo dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo. Buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ben ritrovati, aspettiamo i vostri ricordi di Marco Pannella, il vostro, se volete dire un grazie a Pannella per quello che ha fatto per voi, per noi, per tutti. Anche ironicamente, io ho detto prima, possiamo ringraziare Pannella per quei discorsi che faceva in televisione, in cui negli ultimi anni soprattutto non si capiva più niente, possiamo dirlo. No, in televisione non tanto, sì, perché veramente poca televisione gli hanno fatto fare a Pannella. Fu una delle sue battaglie di avere 15 minuti in televisione, sì, però sicuramente a Radio Radicale Un po' come Fidel Castro che arringava le folle per ore e ore, anche lui parlava per ore. Tant'è vero che anche Bordin, il suo sodale di Radio Radicale, a un certo punto gli diceva basta, non ne possiamo più. Sì, ci fu una famosa trasmissione. Invece ci chiedono via SMS, per favore potete ripetere l'indirizzo della petizione 5 per 1000, bisogna andare su change.org e poi è liberiamo il 5 per 1000, 5 scritto numero, X e poi 1000 scritto numero. Antonio da Bari, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì, senta, io volevo portare la mia esperienza su Marco Pannella, perché ho avuto la grande fortuna di partecipare al primo congresso transnazionale del Partito Radicale a Budapest nell'89. Questo è un momento... è stata una grande intuizione di Pannella. Aspetti un attimo, Antonio, perché questo è dunque nel 1989 il primo congresso a Budapest del transnazionale, primo congresso del Partito Radicale transnazionale. Sì, quando... Sì. Perché l'Ungheria allora era uscita appena dall'occupazione della Russia e quindi c'era quest'area di libertà, ma poi la cosa straordinaria fu il viaggio da Roma a Budapest in aereo, in cui c'erano tutti i principali responsabili del Partito Radicale, c'era Domenico Modugno, Rutelli, Pannella, ed io che ero un semplice militante mi sentivo a mio agio, insomma, non è come negli altri partiti dove gli onorevoli, tutti i ministri si mantengono a queste distanze con la famosa frase lei non sa chi sono io, no? Invece sì. Qui nel Partito Radicale lei dice era una famiglia. Ma ripeto, io voglio puntualizzare la grande intuizione che ebbe Pannella, perché allora di questa apertura verso i paesi dell'est praticamente, che già si affacciavano all'Europa in quel momento. È stata un'esperienza bellissima, perché poi parteciparono gli ungheresi in una maniera entusiastica proprio. Quindi il suo ringraziamento a Marco Pannella in particolare, da mettere agli atti, Antonio, per il nostro gioco di questa mattina, volendo sintetizzare, qual è? E qual è? Questa intuizione dell'apertura al mondo, ai paesi dell'est, di questa partecipazione democratica all'Europa, diciamo, ecco. Va bene, grazie mille, grazie Antonio. Grazie mille. Grazie, buona giornata. Allora, questa mattina, cari ascoltatori, vi chiediamo un vostro ricordo o un vostro, se volete dire, un grazie a Pannella, che nella sua vita, tra l'altro lunghissima vita politica, perché ha cominciato, io sono andato a controllare, ha fondato insieme ad altri il Partito Radicale nel 1955. Pensi, sono più di 60 anni di storia italiana, quindi se volete dire un grazie a Pannella per una delle tante battaglie che ha fatto e che in qualche modo vi ha riguardato, potete farlo questa mattina all'800 24 00 24 e anche questa mattina il ricordo più originale, la telefonata più interessante, porta a casa i biglietti e catalogo della mostra di Miro al Splendido Mudec di Milano. Tra l'altro questa sera c'è la notte dei musei in tutta Italia, in tutta Europa, la notte europea dei musei. Vogliamo dire qualche cosa su questa bella notizia, Carlo? Perché si può andare è una notizia molto bella, si può andare nei musei, nella maggior parte dei musei che avranno un'apertura straordinaria, notturna mi verrebbe da dire, o tardo serale, per cui in alcuni si entra gratis e in altri si entra con un prezzo simbolico di un euro. Che è una bella cosa, per esempio si può andare agli Uffizi stasera pagando un euro e gli Uffizi saranno aperti dalle 19 alle 22. Tra l'altro è un'esperienza particolare quella di andare al museo di notte. C'è anche un famoso film, quindi insomma è assolutamente da fare. E secondo me sarebbe da fare anche più spesso, no? Non solo una volta all'anno, perché questa iniziativa avviene in occasione dell'International Museum Day. La scorsa edizione hanno aderito 3.000 musei distribuiti in 30 nazioni europee e sarebbe bello farlo più spesso, perché è un'esperienza strana che può riavvicinare anche molti cittadini all'esperienza del museo. Io, se ci penso, quant'è che non vado in un museo, è troppo tempo. Perché di giorno è sempre difficile, dici? Più di un anno. Ma infatti la notte è un buon orario. Tutti aspettano, per esempio, sempre per la notte nei musei. A Livorno ci sarà la notte in acquario. Esplora il magico mondo degli abissi. E mi sembra ancora più bello se vai di notte e poi vai all'acquario. Bello. Marcello da Roma, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì. No, beh, diciamo, spiace il fatto che se ne vada anche Pannella, che è uno degli ultimi rappresentanti di una certa politica, che ricordavamo, insomma, in bianco e nero, tribuna elettorale, con altri personaggi, insomma, una dialettica che oggi purtroppo non vediamo nei politici attuali. Sì. E anche, insomma, con le sue campagne referendarie, eccetera, con cose più o meno condivisibili. Io non sono stato, non posso dirmi, insomma, un pannelliano, eccetera, però diciamo, ecco, una volta c'erano, sono stati fatti i referendum per battaglie come il divorzio e l'aborto. Oggi invece magari ci troviamo delle cose imposte dall'alto in Italia, come ad esempio quella delle unioni civili. Non è che ci sia stato un referendum così, ecco, ci tenevo a dir questo. Non ho capito molto l'accostamento, però ci sta. Però è molto interessante il fatto che dica: io non sono pannelliano, non ero pannelliano, ma comunque lo apprezzo. Questo oggi mi sembra che si sia perso, ovvero gli onori all'avversario. Bellissimo, 800 24 00 24, torniamo dopo il GR. A dopo. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Last night I couldn't sleep. I got up and started walking down to the end of my street and on into town. Well, I had no one to meet and I had no taste for talking. Seems I'm talking my whole life. It's time I listen now. Like a stone carried on the river. Like a boat sailing on the sea. Well, I keep on walking. Till I find that old love, oh, that old love comes to find me. Well, I walked into the morning and felt the warm sunlight forming on my shoulders. Cause it hit me with no warning, like a summer sky storming in my lungs. E allora, con questa Keep On Walking, Mike Rosenberg. Vi ricordo che tutte le musiche di Si Può Fare le ritrovate sulla pagina di Si Può Fare sul sito di Radio 24. Pubblichiamo il lunedì tutti i contenuti delle puntate. Continua a camminare. A volte però è difficile continuare a camminare facendo finta di nulla. È il caso di una candidata alle prossime elezioni amministrative. Lei è islamica, è di origini giordane, si chiama Sumaya Abdelkader. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Noi l'abbiamo conosciuta parlando di un progetto che si faceva per le donne e per la crescita dei diritti delle donne musulmane in Italia. Adesso però la ritroviamo candidata alle elezioni e con qualche piccolo problema, Sumaya. Problemi che arrivano con critiche e pregiudizi, soprattutto, da due direzioni opposte. Chi la critica per essere vicina all'integralismo e ai fratelli musulmani, e dall'altra parte c'è una pagina Facebook, Cronache Islamiche, che la accusa di apostasia, cioè di rinnegare la propria fede. Cioè, due accuse opposte, è vero, Sumaya? Praticamente due cose opposte. Sì, diciamo che sono tra due fuochi incrociati, mi trovo nel mezzo. La dura vita... Però, sì. Esatto, sì, mi fa pensare che stando nel mezzo sono nel giusto. Però da quale delle due vogliamo partire per raccontare quello che incredibilmente ti sta succedendo? Da quale critica, da quale attacco vuoi partire? Beh, partiamo dalla prima che avete nominato. Sì, si dice che sono appartenente all'organizzazione dei Fratelli Musulmani, questo ho avuto già modo di parlarne e dire che non è così in una nota che ho postato nel mio blog. Allora, i Fratelli Musulmani, intanto lo dico io, sono un'associazione politica legata all'Islam, presente in alcuni paesi medio orientali, arabi, per alcuni stati è un'organizzazione terroristica, e quindi, però tu sei vicina ai Fratelli Musulmani, sei legata? No, non sono legata in nessun modo, li conosco, li ho studiati, conosco il loro pensiero molto bene, alcune cose del loro pensiero le condivido, altre assolutamente no, perché penso che l'unica cosa che sicuramente penso è che, vivendo in Europa e da musulmani europei, dobbiamo sganciarci da qualsiasi organizzazione che non sia nostra, non sia nata e sviluppata da noi a casa nostra, e che dobbiamo avere un nostro pensiero, una nostra visione europea di musulmani europei qui, perché le dinamiche sono diverse, perché i contesti sono diversi, perché le esigenze sono diverse. E questo è quello che faccio da tantissimi anni all'interno delle comunità islamiche italiane. Quando dici a casa nostra intendi ogni musulmano nel paese in cui è, giustamente, non... Certo. Io casa mia la intendo l'Italia, ovviamente. Lo so bene, è che bisogna ricordarlo, lo so bene che sei nata in Italia, ma è molto giusto, perché sennò uno pensa a casa nostra, pensa al proprio paese, invece mi sembra molto giusto. Sì, anche se mi candido per Milano, casa mia un po' Perugia, perché lì sono nata e cresciuta, però ormai mi sento pienamente milanese, sono qui da 17 anni, e anche il mio accento ormai si sta modificando, e di questo le mie sorelle mi tirano le orecchie sempre, continuamente. Meglio il perugino che il milanese. Dipende, dipende. E poi ci sono stati gli altri attacchi, anche di stampo più preoccupante, che vengono da una pagina Facebook, che incredibilmente Facebook non ha ancora in qualche modo chiuso, Cronache Islamiche, con un vessillo nero inquietante che ricorda un po' quello dell'ISIS. Esatto, sì. Sì, mi hanno decretata, tra virgolette, apostata, perché ho a che fare con uno Stato, secondo loro, che non è islamico, e che ho a che fare con persone che non sono musulmane, che sono entrate nella politica, eccetera, eccetera. E questo, secondo la loro visione, non è accettabile. E in questa visione, quindi, vengo indicata come apostata, ovvero fuori dall'Islam. Ma come giudichi questa visione? Deriva da qualche testo scritto della religione islamica, o è una forma di pensiero, di arretratezza culturale che da respingere? Certo, assolutamente sì, da respingere in tutti i modi, tant'è vero che ormai tantissimi sapienti hanno teorizzato su questo argomento, e la maggior parte si ritrova sul dire che è possibile vivere, convivere, partecipare attivamente in uno Stato, in una società che non è maggioranza musulmana, e che bisogna essere, anzi, elementi propositivi, essere costruttori di pace, di stabilità sociale. E questa, infatti, è sempre stata la traiettoria su cui ho camminato da tantissimi anni, continuo a farlo e lo farò ancora. Soprattutto quello. Soprattutto, mi sembra, loro ti accusano dicendo: per i musulmani l'unico governo legittimo è il governo della Sharia. Sì. Candidarsi a incarichi di uno Stato islamicamente illegittimo significa riconoscere la legittimità di questo Stato. Ma intanto non mi sembra che sia così, giusto? Che per i musulmani... No, ma poi non c'è uno Stato al mondo che sia descrivibile in questo modo. Poi questa Sharia, che cos'è? Usano termini come se fossero chiari a tutti. Sharia significa strada. E questa strada è la strada che è da seguire per un musulmano che rispecchia i principi e i valori. Certo. Poi ci sono delle questioni che sono regolamentate, non so, il diritto di famiglia, eccetera, ma non tutto è regolamentato e deciso e decretato. Per esempio, nella cosiddetta Sharia non si parla di forme di stato di governo, sono a discrezione di chi in quel momento decide cosa fare del proprio paese. Certo, in più guarda, la cosa che mi colpisce anche è che tra le accuse scrivono anche musulmani che si candidano per un partito che vota a favore dei matrimoni omosessuali, dei bombardamenti in Libia, della persecuzione dei musulmani, dei bombardamenti in Iraq e in Afghanistan, e la cosa che mi fa ancora più strano è che comunque i matrimoni omosessuali sono in prima posizione, cioè i bombardamenti in Iraq, in Afghanistan, i bombardamenti in Libia sono meno gravi dei matrimoni fra omosessuali. Certo, no, beh, sì, parliamo anche sulla questione delle unioni civili, c'è un anche lì hanno posto questa cosa, in effetti sì, non avevo notato questo ordine, in effetti c'è, fa riflettere, grazie per avermelo fatto notare. Ci mancherebbe. Anche perché appunto sulla questione tra l'altro dei matrimoni omosessuali, anche in questo secondo me c'è da sottolineare, visto che a Roma l'imam della moschea di Centocelle ha detto che l'omosessualità è un atto contro Dio, invece mi sembra che tu hai una posizione completamente diversa, dici i gay sono i benvenuti nelle moschee, e forse mi sembra un buon modo anche per ricordare che i musulmani non sono tutti uguali, se no di nuovo facciamo il solito modo di generalizzare, come appunto i musulmani assolutamente non sono i terroristi, non sono la stessa cosa. Ugualmente i musulmani sono 1,5 miliardi di fedeli, ma non sono un'unica posizione, giusto? Ma l'imam di Roma ha espresso una posizione che è molto simile a molti cattolici, non è certo. Molto diverso. Per quanto riguarda la c'è un punto di convergenza in questo caso, in effetti, che può sorprendere o anche non sorprendere, è giusto dirlo, sì, è vero. La questione che gli omosessuali non possono entrare in moschea, questa mi sembra assurda, anche perché una persona quando entra in moschea non è che gli si sta a chiedere alla porta di che orientamento sessuale è. Certo. E poi l'Islam non giudica mai, non deve, nessuno di noi può giudicare la musulmanità, tra virgolette, di una persona o un'altra, perché il nostro vivere la fede e la religione è una questione molto personale, molto, molto privata e molto diretta tra la persona e Dio. Quindi solo Dio può conoscere quali sono le nostre intenzioni, quali sono le nostre difficoltà, le nostre verità più intime. E su questo infatti nessuno può porre giudizio sul fatto che uno è il miglior musulmano di un altro. Come una donna che porta il velo o non porta il velo, non si può dire che quella che porta il velo è automaticamente migliore di quella che... Sumaia, resta un attimo ancora con noi, se puoi, ancora un paio di minuti, dobbiamo dare informazioni sul traffico, che siamo andati un po' lunghi, poi voglio chiudere, salutarti con un appello a tutti i musulmani ad andare a votare, perché possiamo dirlo chiaramente, i cittadini di fede musulmana possono partecipare, possono votare, è giusto, è importante invece che sia proprio la rappresentanza politica la sede nella quale si esprimono le istanze, le esigenze, se ci sono, di questa componente ormai importante, fondamentale della società italiana, che sia quella la sede. La politica si elegge, si vota, si dice quello che si pensa in trasparenza, non in altro modo. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in collegamento con Sumaia Abdelkader, candidata alle amministrative a Milano. Lei è una cittadina di origini giordane, sei nata in Italia però, se non ricordo male, vero? Sì, a Perugia. E quindi, Sumaia, possiamo fare intanto una stima, secondo te quanti saranno i cittadini di religione musulmana in Italia che andranno a votare? Saranno molti che rispetteranno questo appello a non votare, oppure ci sarà una buona partecipazione? Cosa immagini? No, ci sarà una buona partecipazione, tra l'altro noi come comunità siamo ormai da un diverso tempo molto attenti all'importanza del voto, e quindi invitiamo le persone ad andare a votare, perché è un'espressione democratica, un esercizio democratico che non può essere saltato, ecco. In particolar modo non è facilissimo, devo dire, perché tanti arrivano da paesi dove non sono abituati a votare. Per cui andare a votare bisogna spiegargli il perché, come si fa, eccetera. Però è un percorso molto importante anche per loro di presa di coscienza. È il solito salto culturale, Sumaia, di cui parliamo, perché l'immigrazione spesso questo anche è fare sì alcune centinaia o migliaia di chilometri in giorni, settimane, mesi di viaggio, mettendo a repentaglio a volte anche la propria vita, però è anche poi fare un salto di secoli a volte, no? E quindi... C'è anche questo. Sì, sicuramente c'è un processo culturale in corso che fa crescere, fa maturare rispetto a certi temi, questo è importantissimo. E quindi un ultimo appello, perché tutti vadano l'appello a votare. L'appello va a tutti i cittadini musulmani o di altre religioni o non credenti, eccetera, eccetera, che vadano a votare, perché si sono fatte lotte importantissime, dure, sanguinarie per avere la libertà, per il diritto di votare e di vivere in una democrazia. Non andare a votare significa un po' storcere il naso verso questa storia importante di libertà. Quindi una battaglia molto pannelliana, anche se vogliamo ricollegarci con Marco Pannella. Giusto. Sumaya, volevo chiederti un'ultima cosa, se sei spaventata da tutto questo, perché forse dobbiamo anche ricordare ai nostri ascoltatori che comunque l'accusa di apostasia notoriamente è una sorta di messa all'indice, quindi è una minaccia, se mi permetti. No, prevede solo la condanna a morte. Ecco, come? Prevede solo la condanna a morte. No, esatto, volevo non dirla io la parola morte, però esatto, volevo dire che questa è una condanna a morte da parte di un sito, di una pagina Facebook, però è una condanna a morte. Volevo chiedere come stavi. Non lo hanno citato, per ora. Però certo. Diciamo, viva, vivissima, anzi più di prima, come prima più di prima, e questo in realtà mi incoraggia e mi dà più forza a voler continuare avanti, a portare avanti le mie battaglie per i diritti e per essere partecipi e far essere sempre più partecipi tante persone all'esercizio della democrazia, per far crescere questo nostro splendido paese. Va bene, grazie Sumaya. Grazie mille, grazie. In bocca al lupo, grazie. Complimenti. Naturalmente, insomma, non so se serve aggiungere, se magari c'è qualche garante che ci sta ascoltando. Abbiamo dato spazio a una candidata, ma non abbiamo assolutamente parlato del motivo per cui si candida. No, non siamo certo entrati in termini di campagna elettorale, cioè siamo un passo prima. Stiamo parlando di qualcuno che l'accusa e la vorrebbe condannare a morte. Tra l'altro è una pagina di Facebook, se posso aggiungere una cosa sulla questione di Facebook. Giustamente dice la chiuderei, molti dicono come si può, non si può chiudere. Qualche giorno fa un mio amico ha postato una foto della sirenetta, sì, di Copenaghen, e Facebook ha bloccato il post perché è nuda, e la sirenetta di Copenaghen, che è il simbolo, è una statua a Copenaghen, vuol dire la sirenetta non è che può uscire dal mare con una t-shirt addosso, no. E quindi al seno ovviamente a vista, è stato cancellato. Ecco, forse anche le condanne a morte possono rientrare un pochino più della sirenetta Facebook, di Copenaghen. Così fai ridere o fai piangere a seconda dei punti di vista, ripigliati, perché così non possiamo andare avanti. Allora, 800 24 00 24, vi aspettiamo anche per il vostro ricordo di Marco Pannella. Questa di Sumaya era sicuramente una battaglia che Pannella avrebbe appoggiato, tirato avanti. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Questa è Si può fare, questa che avete appena ascoltato, abbiamo appena ascoltato, è Can't Stop the Feeling di Justin Timberlake. Vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando di Si può fare in musica, quindi se siete dei compositori, dei cantanti, dei musicisti, ma anche semplicemente degli ascoltatori, e incontrate sulla vostra strada una canzone che secondo voi racchiude bene il concetto di Si può fare, vi chiediamo di segnalarcela. Questa ci è stata segnalata da Alessandra da Mantova, ce lo potete fare segnalandocelo, mandandoci una mail a Si può fare @radio24.it, oppure sui nostri account social a Si può fare _radio24 per quanto riguarda Facebook, oppure Si può fare 24 con la chiocciola davanti per quanto riguarda Twitter, oppure sui nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e c'è anche il mio @AleMaurizzi. Abbiamo Domenico che ci chiama da Mantova. Buongiorno e benvenuto. Pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Eccolo qua. Sabato. Grazie. Niente, è il mio ricordo di Pannella. Il mio ricordo di Pannella è quello di uno che mi ha fatto rinnamorare praticamente della politica in un momento in cui c'era io ho 50 anni, quindi c'era molto bailame in giro, e con il suo fare, a molte volte non in accordo con lui, ma mi ha fatto rinnamorare della politica, tanto è vero che oggi rivedo nei 5 Stelle una parte di quelle battaglie portate avanti da Marco Pannella con molta più concretezza rispetto agli a Pannella, che parlava. Cioè vede più concretezza nel 5 Stelle piuttosto che nel Partito Radicale, nelle battaglie? Sì, in alcune cose sì, tolto il divorzio, l'aborto, sacrosante battaglie, sacrosante conquiste fatte dal popolo italiano per merito di Marco Pannella e dei suoi. Ma Marco Pannella io l'ho adorato per un certo periodo, ma l'ho anche nello stesso tempo non adorato, perché era uno che fagocitava anche i suoi figli. Questo è vero. Però insomma gli va dato atto e merito, che sono più i successi che gli insuccessi. Ecco, questo volevo dire, nel senso che comunque ha raggiunto degli obiettivi. La differenza ovviamente col 5 Stelle è il fatto che il 5 Stelle sta anche cercando di governare, cosa che Pannella sicuramente non ha mai fatto. Va bene, grazie Domenico, buona giornata. Ecco, adesso vi avevamo detto che vi avremmo dato anche qualche suggerimento per questa notte europea dei musei. È con noi, è tornato a trovarci Massimo Temporelli. Ciao Massimo. Ciao. Ciao. Il nostro divulgatore scientifico. Noi stiamo bene, Massimo, sempre il sabato mattina siamo in forma sbagliata. Grande. Senti. Bravi. È la domenica che dura, volevi dire, Alessio? Sì, stavo già pensando alla sveglia di domani. Cosa ci consigli questa sera? Fra le tante iniziative, il nostro divulgatore scientifico sicuramente avrà qualche cosa di originale, di curioso su questo versante dei musei, che non bisogna mai dimenticare, sono importanti anche i musei della scienza. Dovrebbero essere i più importanti per noi uomini contemporanei, però non entriamo in polemica con le altre culture. Quella scientifica è sicuramente una cultura importante e... Siamo ecumenici sicuramente da questo punto di vista, Massimo. Mi fa veramente piacere promuovere un'attività di Napoli, perché come sapete ne avete parlato tanto, la città della scienza ha avuto i suoi grossi problemi nel 2013, in realtà non si è mai fermata e quest'oggi, questa notte, propone una bella cosa al di là della promozione e dell'affetto che abbiamo per la città della scienza, propone una bella cosa a mio giudizio, perché dedica la nottata non tanto all'apertura speciale, ma proprio a tutte quelle attività che gli scienziati e la scienza svolgono durante la notte, quindi l'osservazione del cielo, lo studio degli insetti e degli animali notturni, quindi le falene e i pipistrelli, e insieme a questo spettacoli teatrali dedicati alla notte, insomma molto molto originale. Ma quindi di vista. Ci vorrà una nottata di luna piena o di penombra? Come meglio si osservano tutte queste cose? Non so come sia la luna questa notte, chiaro che stelle purtroppo si vedono meglio quando c'è la luna sgonfia, perché la luna sennò è meno scenografica, fa tanta luce, però si vedono meglio, abbaglia. Però più che la luce, come pensa, più che la luna, sappiamo che il problema è l'inquinamento delle luci all'interno delle città, che non ti fanno vedere niente. Lì sono a Bagnoli sul mare, probabilmente se puntano il telescopio verso il mare c'è un po' di brezzolina, c'è un po' di e gli va un bene. Po' di buio più bello, però mi sembra molto bello, molto bello che a Napoli sfruttino il fatto che sia notte, non semplicemente che apro lo stesso museo. Bravo. E lo apro con 2 ore in più, ma dico cosa posso fare visto che è notte. Allora io osservo gli animali notturni, osservo il cielo e faccio spettacoli sulla notte. Mi sembra molto bello. E ci voleva Temporelli per suggerirci una cosa così. Grazie Massimo. Grazie Massimo. Ciao. Buona domenica. Grazie altrettanto. Allora, chiudiamo con un ascoltatore prima della pausa. Sì, Francesco da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi sente? Perché sto guidando, quindi non so se mi sentite. Noi sente? Però mi raccomando, però esatto, usi il viva voce. Faccia il bravo, si fermi. Va bene. Mettiamola così, sì, va bene. Sì. Sì. No, anch'io volevo intervenire su Pannella, semplicemente per dire questa cosa, che le sue battaglie sono state sacrosante in molti aspetti e dobbiamo molto a questa persona. Però alcune sue battaglie, in particolare quelle che hanno visto la personalizzazione della politica, del capo politico, secondo me si sono innestate in un paese che ancora non era maturo. Mi ricordo quando vennero fuori le prime liste Pannella, che fu una cosa dirompente, no? Cioè non c'era un simbolo di un partito, ma un nome sul... Forse è stato il primo, è vero. È stato il primo leader. Fu assolutamente il primo, fu una cosa dirompente. Io mi ricordo, avevo 20 anni... la cosa mi colpì tantissimo e mi piacque anche molto, però ora a distanza di 25-26 anni mi rendo conto che invece questa personalizzazione è avvenuta in un paese che non era maturo e ora ci troviamo con questo fantomatico partito della nazione, con questi salvatori della patria che si presentano come appunto... Guardi Francesco, io sono talmente d'accordo che azzardo anche questa analisi del tutto sconclusionata, perché non sono un politologo, le liste personali sono l'inizio della fine della politica, adesso esagero, però anch'io sono tristemente attonito di fronte a questa deriva che è iniziata forse proprio con... Pannella, però il problema non è che il paese non fosse maturo, quello che lei sta dicendo è che forse Pannella ha fatto da apripista e ha iniziato un modo anche lì, che in realtà forse è stato un modo terribile e molto dannoso. Sì, è stato dannoso e io penso che se avesse aspettato qualcosa, avesse magari lottato per far crescere il paese politicamente, forse ora andava anche bene questa personalizzazione, ma in un paese che... abbiamo dimostrato con Berlusconi non è maturo per questa personalizzazione, per il nome messo sul logo. La personalizzazione è stato... concordo, il fatto che Pannella però abbia contribuito alla crescita politica del paese lo penso fermamente. No, quello assolutamente anch'io, cioè in alcuni aspetti sì, in altri secondo me potrebbe essere anche stato dannoso. Va bene, posso, Francesco, l'ultimo sì? Secondo, volevo chiedervi una cosa, una curiosità sul 5 per 1000, perché è stato detto che solo 17 milioni di contribuenti su 38, lo segnano. Sì, su 38. Volevo sapere, gli altri 20 milioni di contribuenti, il loro 5 per 1000, dove va a finire? Si sa? Bella domanda, bisognerà riconvocare Massimo Coencagli per chiederglielo. Credo io che non sia come l'8 per 1000 alle religioni, per cui in realtà anche quelli che non segnano, gli altri vengono risuddivisi secondo le percentuali di quelli che hanno segnato, però credo che vadano allo Stato, ma sono comunque assegnati al campo della cultura, se non sbaglio, però... molto probabilmente sbaglio, quindi adesso chiameranno tutti per correggere. Quante volte sbagli? 2, 3, 4 volte? Ma 5.000. Più. Torniamo tra un attimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Lasciatemi stare, lasciatemi andare, lasciatemi vedere per favore che nessuno pensi a me. E qua siamo andati su un super vintage, Rocky Roberts, lasciatemi stare. È perfetta, sempre grande il nostro Andrea Piana, autore del programma, le nostre scelte musicali sulla pagina Si può fare sul sito di Radio 24, le ritrovate tutti, lasciatemi stare, perché a Capri arriva un'ordinanza del sindaco che dice basta, sanzioni, multe a chi infastidisce i turisti, vengo a vivere a Capri. Sindaco, buongiorno, Giovanni De Martino. Buongiorno a voi. Buongiorno. Però vorrei che inserisse nell'ordinanza anche le compagnie telefoniche che mi chiamano 4 volte al giorno per propormi dei contratti. Possiamo farlo? E non solo le compagnie di telefonia, anche a tanti altri. Vediamo, ci proviamo. Però rimaniamo su Capri. Sulle cose per strada. Che succede a Capri? Dunque, abbiamo semplicemente ripreso una precedente ordinanza che risaliva al 2001 e che già sanzionava chi infastidiva, diciamo, il visitatore di Capri lungo le strade, gli spazi pubblici di Capri, per proporre gite in barca, tour, escursioni e tutto il resto. Allora, siccome il provvedimento era un pochettino blando e soprattutto non dava la possibilità di un controllo più specifico e non disciplinava quali fossero le attività da sanzionare, abbiamo ripreso quel provvedimento, l'abbiamo un pochettino incattivito, tra virgolette, nel senso che abbiamo dato ulteriori indicazioni di come comportarsi alle forze di polizia che controllano il territorio. Ecco, ma come si distingue intanto il turista? Cioè, se uno infastidisce un abitante di Capri, va bene? No. Neanche, ma anche perché ci conosciamo tutti ed è difficile che capiti, però capita anche quello, non lo nascondo. E le sanzioni, le sanzioni a quanto ammontano? La sanzione adesso abbiamo elevato la sanzione minima a 300 euro, mentre prima si parlava di 25-50 euro, quindi era un provvedimento un pochettino leggero, ma soprattutto era un provvedimento che non dava specifiche indicazioni di come comportarsi con la gente. In questo modo speriamo di aver dato un ulteriore impulso a questa attività di controllo e quindi la possibilità di intervenire con più precisione. Scusi, non stiamo parlando solo degli ambulanti, a Milano si direbbe dei venditori di rose, e anche per esempio di coloro che hanno un ristorante e si mettono in mezzo alla strada e cercano di prendere il turista e a volte prendono il turista proprio fisicamente e gli fanno vedere l'acquario dei pesci da mangiare. Esattamente, ananche in quel caso si può intervenire, se il noleggiatore della barca ti si avvicina e ti propone qualcosa, insomma si fa il capannello intorno alla gente e poi questo con la concorrenza porta anche a volte a litigi tra i diretti interessati, per cui insomma si crea un disturbo maggiore della tranquillità. Però mi chiedo è, siccome nell'ordinanza c'è scritto qualsiasi attività di intermediazione o promozione di offerte di beni e servizi, inclusa la pubblicità ambulante con qualsiasi forma o mezzo, io mi chiedo, nel senso che anche semplicemente uno che dà dei volantini, per esempio. Esatto. Noi vogliamo liberare il territorio da questa oppressione che il visitatore subisce. Ma avete avuto tante lamentele, perché io mi metto anche nei panni del turista, ogni tanto mi capita anche a me di fare il turista, devo dire che capita, no? In tutti i posti forse del mondo, soprattutto nei luoghi magari di mare dove c'è più calore anche umano, e ti pigliano e ti portano dentro. Un turista forse se lo aspetta anche, no? Fa parte un po' del gioco. Sì, però infastidisce, infastidisce notevolmente. Gli spazi sono molto piccoli, perché ci muoviamo in spazi molto piccoli, quindi creare questo ulteriore congestionamento in questi piccoli spazi, insomma, è una cosa che dà fastidio. Se noi vogliamo che il visitatore di Capri percorra liberamente le strade, gli spazi, eccetera, e si può rivolgere sicuramente a tutte queste attività. Cioè, lei vorrebbe che Capri diventasse un po' un posto un po' più ancora più chic, ancora più ben frequentato, cioè senza queste cose. No, ma non è un fatto, di eleganza o di cattiveria verso le aziende. Si tratta solo di disciplinare il tutto per lasciare libero il visitatore di scegliere quello che deve fare, quello che può fare quando sbarca a Capri. Ci sono dei punti di informazione, ci sono comunque dei riferimenti per cui il visitatore liberamente può andare a scegliere il suo bar dove potersi sedere, il suo noleggio dove poter fare il giro dell'isola, le aziende che operano. Mi scusi, ma quindi non è che sarà limitato o multato l'esagerazione, sarà proprio vietata qualunque tipo di forma di pubblicità, quindi non è che, no, perché io mi chiedevo, sarà difficile capire quando uno sta esagerando, però direi che lei ha risolto il problema dicendo no, è che proprio non si può fare, nessuno può uscire dal ristorante, e dire venga qui per piacere, qua si mangia benissimo, quello è vietato. Sicuramente, esatto, è vietato. E consigli fra amici si può? Consigli? Fra amici, dice guardi, le consiglio vivamente la pizzeria all'angolo, o anche quello 300 euro. Anche perché è difficile, poi sarebbe difficile controllare tutto quanto. Però noi cercheremo di evitare che qualsiasi indicazione che non sia di libera scelta del visitatore possa infastidire il visitatore stesso. Senta, ma come va il turismo? Va sempre molto bene a Capri, che è andata, vi aspettate quest'estate? La stagione è cominciata alla grande, il tempo ci sta assistendo anche se non in maniera eccezionale, e noi speriamo di ripetere, se non di superare la stagione passata, insomma, perché l'anno scorso anche abbiamo un buon successo di frequentatori, di turisti, di eventi, di manifestazioni e tutto il resto. Ecco, senta, volevo segnalarle questa cosa che c'è oggi sul Corriere della Sera in prima pagina, che riguarda un dirimpettaio praiano in costiera amalfitana. È una storia, ma bella storia, segnalata da Gian Antonio Stella. Il museo all'aperto, pagato ai cittadini, hanno i praianesi creato una onlus e hanno rivitalizzato anche con fondi loro la piccola cittadina lungo la costiera, e quindi insomma una bella storia. Voi a Capri immagino che insomma... A Capri siamo riusciti anche quest'anno a prolungare gli orari di apertura dei siti monumentali più importanti, gli scavi di Villa Iovis e la Certosa di San Giacomo, con un contributo e con un accordo di programma con la sovrintendenza per il Polo Museale di Napoli. Quindi anche questo è un successo, perché l'anno scorso con questo prolungamento abbiamo raggiunto una percentuale di aumento di visitatori oltre il 40%. Quindi insomma anche questo è un segnale per il turista, per il visitatore, di dedicarsi, oltre che al giro in piazzetta che è sempre piacevole, di dedicarsi anche alla visita di questi posti meno centrali. Senta, ma quando è il momento migliore per venire a Capri e per evitare di trovare proprio... Io suggerisco diciamo giugno, maggio, giugno e settembre, luglio, agosto naturalmente, è, come dappertutto nei posti turistici, insomma è il periodo forse più bello da un punto di vista di emozione e di confusione, ma è il periodo meno bello per poter godere del territorio. Quindi adesso subito approfittatene, andate tutti a Capri finché non arriva. Attenzione a non dare troppi consigli, perché io ho sentito il sindaco che ha consigliato giugno, luglio, però agosto... 300 euro, signor sindaco. 300 euro di sanzione, sì, 300 euro di sanzione, sì. Ma vale anche al telefono? Vale anche invitiamo, al telefono. Invitiamo chi viene infastidito di segnalarcelo, in modo che abbiamo la possibilità di utilizzare, oltre che le forze dell'ordine, anche l'aiuto dei visitatori. Va bene. Grazie De Martino, buona giornata. Buon lavoro. Buon lavoro. Grazie, buon sabato, buon mare. E andate a Capri, anche se qualcuno vi infastidisce. Nessuno vi infastidirà. Se l'ordinanza andrà a buon fine. Voglio vedere poi i vigili che vanno lì, da quello che cerca di procacciarsi un po' di lavoro col giro in barca, no, e gli fa la multa. No, ma soprattutto, spesso sono anche così. Ma soprattutto, no? Io vorrei, cioè, sei tedesco, scendi dalla barca, incontri qualcuno e dici: mi consiglia per piacere un ristorante? Posso. Non posso assolutamente. Vada via, che sennò qua mi danno la multa di 500 euro. Traffico, torniamo tra un attimo. Sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua con Maria Grazia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo parlare della notte dei musei, che sono un po' molto emozionata, che anche alla Sapienza, all'Università di Roma, c'è una bellissima programmazione per la notte dei musei. Ci sono una serie di musei sconosciuti, purtroppo, perché per adesso, fino ad ora, non sono stati mai pubblicizzati. Ci dica qualche pillola. C'è un bellissimo museo della medicina, di anatomia comparata, oppure c'è la scienza della terra, abbiamo la gipsoteca, abbiamo il museo di antropologia che ha il direttore Giorgio Manzi, cura la ricerca e soprattutto l'esposizione di quello che è stata l'evoluzione umana, oppure c'è il museo della chimica. In questa notte, oltre alla visita di questi musei accompagnate, quindi ci sono dei tour ad orario, ci saranno anche degli spettacoli musicali in Aula Magna, nella nostra bellissima Aula Magna. Io sono un po' di parte, devo essere sincera, perché sono dipendente dell'università. Va bene, può dare tranquillamente suggerimenti, tanto non siamo a Capri, non si rischia la multa, e quindi tranquilla Maria Grazia. Anzi, no, a Capri, a Roma. Sì, no, stavo parlando di quello di cui abbiamo parlato poco fa, qui su Radio 24. Di pubblicità, no, sì, certo. Grazie Maria Grazia, un modo sicuramente molto originale per passare un sabato sera, andare al Museo della Chimica, alla Sapienza a Roma. Cioè, se volete fare doppio colpo, sicuramente potete fare una proposta del genere. Adesso è il momento di dare spazio ai nostri amici, i ragazzi di Radio Immaginaria, una radio fatta solo da bambini tra gli 11 e i 17 anni, bambini, ragazzi, cosa si può dire da quell'età lì, ragazzi, poi adolescenti che hanno deciso insieme a noi di scommettere su questo, raccontare il bullismo e quindi le difficoltà di questi ragazzi nelle scuole, ma anche nei luoghi che vivono tutti i giorni. E quindi noi raccontiamo questo a beneficio non tanto dei loro coetanei, che probabilmente a quest'ora sono tutti a scuola, quanto dei loro genitori, che sono all'ascolto. E allora Cacciabulli torna a farci compagnia di sabato mattina. Vai. Ma lasciami stare, mi devi lasciare stare, capito? Smettila, dai, non t'ho neanche toccato. Hai un bullo avvitato tra i piedi? Svitalo con il Cacciabulli di Radio Immaginaria. Ogni sabato su Radio 24. Ciao a tutti, ciao Alessio, ciao Carlo. Noi siamo quelli di Radio Immaginaria, la prima e unica radio di adolescenti in Europa. La può fare chiunque, basta che abbia dagli 11 ai 17 anni. E noi siamo qui con questo programma che si chiama Cacciabulli per raccontarvi le nostre storie di bullismo. E anche oggi abbiamo una storia. Ciao, sono Moldavo e la mia storia inizia una settimana fa a scuola. Durante l'intervallo, un mio compagno, perché l'ho lanciato un goccio d'acqua, mi ha dato un pugno sul labbro inferiore. Ma gli hai lanciato un goccio d'acqua o gli hai fatto un bagno? Scusa. No, era praticamente la bottiglietta con il tappo un po' chiuso, quindi era solo un goccino, non tanto. E lui ha reagito così, dandoti due pugni? Sì, mi ha dato due pugni, però lui non si riesce a spiegare come mai me l'ha dato. Ah, cioè, così, tanto perché gli andava. E dopo cos'è successo? Dopo i professori hanno visto tanto sangue che mi stavano dal labbro e hanno chiamato i genitori, lui si è pentito di ciò che ha fatto, mi hanno dato anche dei punti perché sono andato dall'ospedale. Ma scusa, ma tu lo vedi come un amico o come un bullo? No, io lo vedo come un amico perché lui si è pentito di ciò che ha fatto, invece il bullo non si pente mai di ciò che fa. Ma questa era soltanto una delle nostre storie, abbiamo tantissime altre cose da raccontarvi, per cui rimanete connessi con noi su Cacciabulli. Radio Immaginaria, sì sì! Una ragazza minorenne ci ha scritto una lettera e una nostra speaker la leggerà. Oh yeah! Ciao, volevo raccontarvi la mia storia. Inizia quando avevo 14 anni e andavo in terza media. Lì un gruppo di compagni di classe si credeva superiore in tutto, insultavano tutti quelli che non facevano come loro. Alla fine tutta la classe entrò nel loro gruppo, a parte io e la mia compagna di banco. Per questo ci chiamavano sfigate, ci dicevano che non eravamo alla loro altezza e che facevamo schifo. A me non importava, ma la mia compagna di banco voleva assolutamente entrarci per farsi degli amici. Quando incominciò a vestirsi e a comportarsi come loro, però loro le dissero che non sarebbe mai stata una di loro, che non avrebbe mai fatto parte del loro gruppo. E ridendole in faccia le dissero di sparire. Un giorno che la vidi sola la invitai fuori. Faceva caldo e non riuscivo a capire perché avesse le maniche lunghe. Finché non scoprì i suoi tagli e mi disse che stava pensando di andarsene perché non ce la faceva più, non riusciva più a sopportare quella situazione. E io la difesi. Purtroppo però, entrata alle superiori, la persi di vista. Radio Immaginaria! E anche con questa storia stiamo veramente cercando racconti sul bullismo da tutta Italia. E mi raccomando, la cosa più importante è parlarne. Quindi mandateci una mail, mandateci la vostra storia alla nostra email radioimmaginare@gmail.com. Anche se magari all'inizio non è semplice, non preoccupatevi. Prendete coraggio, poi magari vi cambiamo la voce, e rimanete anonimi. Quindi comunque se non la volete registrare, noi la racconteremo per voi. Ci risentiamo la prossima settimana con altre storie. Ciao! Ciao! Ma lasciami stare, mi devi lasciare stare, hai capito? Smettila dai, non ti ho neanche toccato! Hai un bullo avvitato tra i piedi? Svitalo con il Cacciabulli di Radio Immaginaria. Ogni sabato su Radio 24. E allora ci risentiremo con Radio Immaginaria sabato prossimo. Noi invece con Si Può Fare ci risentiamo domani mattina tra le 8.30 e le 10, come sempre la domenica. È arrivato il momento dei saluti, delle premiazioni. Delle premiazioni. Tutti attendono. E allora diciamolo, chi è che vince il nostro gioco di oggi? Il vincitore del gioco è Domenico da Mantova, perché ci ha raccontato che Pannella l'ha fatto rinnamorare della politica quando non credeva più a nulla. Chissà se poi nel frattempo si è pentito di questo amore per la politica, visto che la politica gode di buona stampa, certo, normalmente, di buona fama. Abbiamo parlato con lui e ci sembrava giusto, insomma. Parlato con lui in diretta, non è che ne abbiamo parlato... Non con Pannella, No. Siamo ancora in grado con di Domenico fare da Mantova. E in fondo è che bello... Che vince due biglietti per il MUDEC. Certo, Jean Miró. È bello dire questo di Pannella perché forse la quintessenza di Pannella è proprio quella di averci fatto amare la politica in un periodo nel quale la politica faceva schifo a tutti. Sì, anche cercare di spiegarci che si può fare quando sembra tutto impossibile, tutto sembra che non si possa fare. Ci fermiamo qua. Grazie a tutti. All'Andrea Piana, che ha scritto insieme a noi il programma. A Claudia Schiattone, autrice, redattrice, inesauribile anima di questo programma. Filippo Reggi in regia quest'oggi, noi ci sentiamo domani. Sì signori, io oggi pomeriggio sarò al Taste of Milano. Bravo, mi intervistano alle 14.30, presento anche un po' il libro ovviamente. Non mangiare troppo, domani arriva sobrio, mi raccomando. Sì signori. E un appello a tutti, iscrivetevi al podcast di Si Può Fare sul sito di Radio 24, così se si può fare il vostro programma imperdibile, quando per caso ne perdete una puntata, lo potete sentire anche nei giorni feriali, cioè noi lavoriamo nei giorni festivi e voi ci ascoltate nei giorni feriali. Mentre mangiate, mentre fate ginnastica, ginnastica mentre dormite, come volete. Ciao a tutti, a domani da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ciao e buon sabato, e soprattutto ciao a chi ci ascolta in podcast.